America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, beh, ormai il countdown per le nostre elezioni è dietro l'angolo. Io vorrei restare in tema in questi giorni che ci separano dalle elezioni e cercare di capire qual è il ruolo dell'America, degli Stati Uniti, l'impatto di Washington su queste nostre elezioni. Su questo il rapporto con l'America resta importante. Io mi occupo tutti i giorni di America qui a Radio 24, l'America 24, e come sapete ho fatto una chiacchierata con i principali candidati. Dunque, oggi voglio riproporvi una sintesi delle posizioni dei candidati che hanno accettato di essere intervistati da noi. E dunque cominciamo con Mario Monti e l'America. America 24. Buongiorno Presidente. Buongiorno. C'è un modello a cui noi forse dovremmo ispirarci guardando in avanti in materia di riforma elettorale? Direi che il modello al quale ispirarsi è quello di stabilità delle istituzioni con una grande flessibilità nelle politiche. In fondo, con la stessa Costituzione, per più di due secoli gli Stati Uniti sono stati in grado di fare politiche radicalmente diverse, come politica sociale, politica economica. E in Europa abbiamo due problemi, che sono: uno, quello di avvicinarci ad un ordinamento costituzionale per la nostra federazione, l'Unione Europea, che abbia lo stesso grado di forza e di stabilità della Costituzione americana, e a lenti passi ci stiamo arrivando. L'altro poi in subordine è quello effettivamente dei meccanismi elettorali, ma insomma non vorrei adesso essere costretto a paragonare ciò che fu stabilito dai padri fondatori degli Stati Uniti alla fine del XVIII secolo con quanto più recentemente in Italia è stato definito il Porcellum. Qui in America ci sono le lobby, sono registrate, trasparenti, permessi, minimizzano, diciamo, il rischio di un rapporto incestuoso fra politica e affari. Ecco, in queste elezioni non si è parlato di lobby. Lei è favorevole a introdurre le lobby? Lo farebbe nel corso del suo prossimo mandato? Sicuramente sì, sarei favorevole, però non prenderei onestamente gli Stati Uniti come modello immacolato e al di sopra di ogni dubbio, perché abbiamo visto in certe fasi, per esempio durante la presidenza Bush, quando l'egemonia culturale del mondo dell'impresa e della banca era pressoché totale, erano loro che dettavano la politica economica e anche monetaria delle autorità americane, così come non mi piace quello che di recente la Corte Suprema americana ha stabilito, cioè la possibilità illimitata, se ricordo bene, per il business di dare finanziamenti ai candidati e ai partiti. America 24. Buongiorno dottor Ingroia. Buongiorno a voi. L'altro giorno c'è stato un convegno qui a New York piuttosto interessante, si è parlato di investimenti diretti americani in Italia e ci siamo accorti che sono al 26esimo posto, cioè si investe dappertutto tranne che in Italia. Quando poi devono aprire magari un impianto lo fanno ancora di meno. È favorevole ad aumentare gli investimenti diretti americani in Italia? Certamente sì, investimenti americani e comunque in generale investimenti stranieri. Noi, l'Italia ha bisogno di investitori esteri per riattivare e sollecitare l'economia e così stimolare la ripresa economica, e non c'è dubbio che ci sono nel sistema italiano sicuramente delle cose che vanno modernizzate e delle altre che vanno eliminate. Quando parlo di modernizzazione mi riferisco alla burocrazia degli apparati statali e burocratici italiani, che vanno certamente semplificati, e quando mi riferisco all'eliminazione mi riferisco alle mafie e al sistema della corruzione, che certamente si sa che in Italia è molto pesante e ovviamente scoraggia gli imprenditori. Il sistema americano è un sistema anche dal punto di vista della giustizia certamente più efficiente e va rivisto ad esempio il sistema delle impugnazioni. Non voglio entrare nel dettaglio. Entrando nel dettaglio, proprio le aziende, io ho sentito, dicevano appunto, come dice lei, il la mancata certezza di un contratto. Se a un certo punto questo contratto viene o revocato o non viene pagato, quando poi uno vuol farsi valere in tribunale, alla fine o va alle calende greche oppure non pagano. Insomma, è un'incertezza continua. Lei crede che si possa cambiare questa percezione di incertezza? Assolutamente sì. Va fatta una riforma del processo penale e del processo civile che abbia tra le varie priorità possibili individua la priorità quella dei tempi. I tempi in un processo è qualcosa di fondamentale, è stato sempre ignorato in tutti i progetti di riforma in Italia, dove si è pensato ad altre cose, si è pensato al presunto squilibrio fra le parti, il PM, la difesa e così via. Invece bisogna guardare al sodo, il sodo è assicurare una sentenza in tempi rapidi. America 24. Buongiorno onorevole Bersani. Buongiorno a tutti. Diciamo, lei è più favorevole alla posizione americana, che preme sulla crescita, piuttosto che a quella tedesca, che preme sul rigore? Certo, questo è l'atteggiamento di tutta la piattaforma dei progressisti europei, che stanno dicendo: manteniamo il rigore, manteniamo l'austerità, però attenzione che il rientro dal debito e dal deficit è un tema di medio periodo. Adesso l'urgenza è cercare di dare qualche risposta alla questione del lavoro e della crescita, ecco. Dopodiché, per quel che riguarda l'esperienza del governo Monti, per noi quel tanto di immagine di rigore, di serietà che il governo Monti, col nostro aiuto, perché noi l'abbiamo voluto, l'abbiamo sostenuto, è riuscito a dare nel mondo, per noi è un punto di non ritorno. Vogliamo aggiungere a questo un po' più di equità, un po' più di lavoro, ecco. Se devo dirlo in due parole. Privatizzazione. È chiaro che se lo Stato interviene, se i politici hanno la possibilità di nominare dei consiglieri di amministrazione, il rischio che qualche cosa di non bello succeda c'è. Ecco, è favorevole a privatizzare un po' tutte le grandi aziende italiane che oggi restano con forti percentuali in mano allo Stato, forse percentuali di pacchetto di capitale in mano allo Stato? Ma insomma, adesso non facciamo di tutte le erbe un fascio. Noi siamo stati i grandi privatizzatori come centro-sinistra. Questo lo si sa, ne ho fatte anch'io di privatizzazione. Il fatto che in alcune grandi imprese un azionista di riferimento che lavora a condizioni di mercato possa ancora essere il pubblico, per un paese, per il nostro, non è da escludere. Dentro norme europee che garantiscono effettivamente condizioni di mercato. Sto parlando attualmente di grandi holding che possono essere l'Eni, Enel, Finmeccanica e così via. Lei al Financial Times ha detto che era favorevole, se non sbaglio, a una privatizzazione totale di Eni e Enel, ma non di Finmeccanica. Ce lo conferma? No, non credo vero. Io privatizzazione totale di Eni e Enel, io non ho detto una cosa di questo genere. Io penso invece che sulle società operative, in meno in questa fase, si possono fare operazioni di accordi industriali, anche di privatizzazioni. Non metterei all'ordine del giorno in questo momento, anche per come vanno i mercati, francamente, la privatizzazione totale di queste holding. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vi visita in tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Torniamo a New York con un concerto molto atteso di Sixto Rodriguez, il cantautore di Detroit, riscoperto grazie al documentario Searching for Sugar Man, candidato agli Oscar, documentario straordinario. Quest'uomo, pensate, era completamente scomparso, ne abbiamo parlato in un'altra trasmissione, e dopodiché è stato riscoperto per puro caso. Il suo spettacolo l'8 aprile a Town Hall qui a New York è già sold out. Dunque, di Sixto Rodriguez, Sugar Man. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!